The Agronomist, pellicola del 2003 del già premio Oscar Jonathan Demme, autore di The Manchurian Candidate, Philadelphia, Il silenzio degli innocenti, un film che tutti dovrebbero vedere, recita il sottotitolo. Non si può che condividere l'invito per un paio di buone ragioni. Il primo motivo per vedere The Agronomist è che è un film dossier articolato e preciso che mette in luce la figura di Jean-Léopold Dominique, giornalista indipendente haitiano ucciso nel 2000. Grazie a lunghe interviste riprese negli anni, ad immagini di archivio e reperti audio originali, Demme spiega la storia di Jean Dominique, nato ad Haiti, diventato agronomo in Francia e tornato nel suo paese per migliorarne le culture. Lo appassiona la lotta politica per i diritti civili degli esclusi, che sono ad Haiti i contadini oppressi del corrotto governo filoamericano, i coltivatori di riso e canna da zucchero, le principali risorse della Repubblica Centroamericana. Tornato in patria, Dominique inizia a collaborare con una stazione radio locale, Radio Haiti Inter. Dopo pochi anni l'acquista. Radio Haiti Inter diventerà l'unica voce indipendente di Haiti, dove le lotte sociali di rivendicazione dei contadini non saranno censurate dal governo. Gli anni passano, emerge la figura di padre Jean-Bernard Aristide e del suo movimento per una definitiva indipendenza dagli USA. Il film fa in modo che si ripercorra la storia della piccola nazione caraibica. In particolare si conoscono le vicissitudini di questo giornalista indipendente, costretto per ben due volte all'esilio e barbaramente ucciso davanti al simbolo della sua protesta, la sua radio. In generale, il film è utile per approfondire la politica estera americana verso le cosiddette Banana Republic. Due scene racchiudono l'intuizione di The Agronomist: la smorfia di Dominique, che fiuta e odora i mutamenti politici in corso, e l'edificio di Radio Haiti Inter martoriato dai proiettili dell'esercito haitiano. La seconda ragione per vedere The Agronomist si basa su un altro livello d'analisi. Difatti, il film segna un passo importante per il cinema nordamericano: la voglia dei grandi registi americani di riconfrontarsi con il film documentario, da sempre palestra dei più giovani, squattrinati ma impegnati. Demme, autore di una regia raffinata, emozionante, mai ruffiana e senza esibizionismi o effetti speciali esagerati, ha dimostrato sempre di amare il vecchio modo americano di fare cinema, meritando i riconoscimenti ricevuti in una lunga carriera. Da anni registrava interviste a Dominique senza trovare le forze economiche di produrle. Esse sono arrivate in un particolare momento, dove grandi registi, dal tedesco Wim Wenders all'americano Michael Moore, hanno riaperto una via per il documentario sul grande schermo, superando molti schematismi e automatismi delle grandi majors. Tutti i registi tra loro ben differenti, si intende, ma coraggiosi tanto da trasmettere la loro passione per la settima arte. La scelta di grandi autori per il documentario ci fa essere ottimisti, perché dichiara una presa di coscienza degli stessi verso un ruolo preciso per il regista cinematografico, consapevole forse più dei produttori, ma soprattutto grazie a Moore se ne sono accorti anche loro, del bisogno di essere informati e di quanto questa necessità sia soppressa dai canali tradizionalmente preposti. Lorenzo Rania, Amisnet.